Letture di Radio 24. Il prossimo 3 aprile si giocherà il derby di Milano e la dirigenza rossonera ha così deciso di riservare lo stadio ai propri supporters. Così è iniziata la rincorsa ai biglietti e qualche tifoso dell'Inter, pur di vedere la partita dal vivo, si è venduto al diavolo. L'unico modo per entrare allo stadio è quello di vendere l'anima al diavolo. Il derby del 3 aprile è il primo della storia riservato ai supporter milanisti. La società rossonera, che giocherà in casa al Meazza fra 3 settimane, ha iniziato a vendere i preziosi tagliandi per assistere alla stracittadina che deciderà la corsa a scudetto. Obiettivo? Avere tutto lo stadio a sostegno di Ibra e compagni. I requisiti per la vendita libera dei tagliandi, i posti non occupati, cioè dai 29.000 abbonati al campionato, parlano chiaro. Può comprare solo chi ha sottoscritto Cuore Rossonero, la tessera del tifoso milanista già chiesta da oltre 280.000 fan del diavolo. Gli interisti? In teoria dovranno accontentarsi degli 8.000 posti del settore ospiti. La scelta del Milan garantirà che i biglietti in dotazione al club padrone di casa, spiega la società di Viaturati sul suo sito web, andranno solo ai veri tifosi milanisti. E qui entra in scena lo stratagemma della doppia tessera. Molti cuori nerazzurri, pur di guardare dal vivo la partita, hanno richiesto per tempo il badge milanista e ieri mattina si sono recati in banca per accaparrarsi uno dei circa 40.000 biglietti disponibili. Sui blog e i forum nerazzurri, come Interfans, non si parla d'altro. C'è chi si firma Doggo e annuncia di aver ritirato senza problemi 2 biglietti di secondo anello rosso. Chi si lamenta per l'attesa causata da un guasto ai terminal della filiale e chi cerca delucidazioni sul possibile cambio di nominativo del tagliando. In effetti, fare la tessera del tifoso è un gioco da ragazzi e non richiede nessun certificato di battesimo calcistico. Basta recarsi in una qualsiasi agenzia bancaria convenzionata con il Milan, presentare un documento, lasciare una foto e versare 10 euro. Più della corsa a ostacoli per ottenere il tagliando, tra gli interisti è già iniziato il dibattito etico. Chi è disposto a diventare un cuore rossonero per avere il biglietto? Siete senza dignità, commenta l'intransigente Nati. Io non prenderei mai una tessera del Milan, piuttosto me la guardo in TV. Una cosa è certa, se il travestimento rossonero vale la candela, lo si saprà soltanto al 90esimo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Gli interisti si vendono al diavolo, di Massimo Costa, da Libero, di mercoledì 9 marzo. Letture di Radio 24. Nel 1915 l'economista austriaco Joseph Schumpeter elogiava il capitalismo, ma allo stesso tempo ne prevedeva il declino, ponendo però l'accento sul ruolo da rivoluzionario che l'imprenditore avrebbe ricoperto. L'opera in cui Schumpeter riflette sulla figura dell'imprenditore e del capitalismo è il saggio Passato e futuro nelle scienze sociali e dopo 96 anni viene tradotta in italiano. Come si sviluppano le scienze sociali grazie alle quali noi ci formiamo un'immagine del mondo in cui viviamo e costruiamo percorsi per la realizzazione degli obiettivi sociali e politici che ci stanno a cuore? Si sviluppano attraverso un processo cumulativo di dati che ci vengono offerti dai ricercatori con un lavoro incessante di osservazione? O si sviluppano anche e soprattutto grazie alle grandi svolte economico-sociali? Nel suo saggio Passato e futuro nelle scienze sociali, pubblicato nel 1915 e appena uscito in traduzione italiana presso Liberi Libri, a cura di Adelino Zanini, Joseph Schumpeter risponde che quello sviluppo deve essere inteso sia alla luce della continuità, cioè come processo cumulativo di nuovi dati, sia alla luce della discontinuità. Ma leggendo con attenzione le sempre stimolanti pagine schumpeteriane, si capisce benissimo che quello che più attira l'attenzione del pensatore austriaco è la discontinuità. Del resto, egli dice, le scienze sociali ebbero propriamente origine solo nel XVIII secolo, nel momento in cui l'intero edificio della nostra cultura fu scosso e incrinato. Iniziava allora infatti quell'enorme processo chiamato rivoluzione industriale, in cui la forma di produzione su larga scala infranse i conflitti della comunità di villaggio e della gilda, e in cui il moderno esercito dei lavoratori, sotto la guida degli imprenditori, spezzò i confini dell'ordine feudale. Ma la rivoluzione industriale determinò una rivoluzione intellettuale e politica. Le visioni delle cose e i comportamenti dei circoli dominanti divennero obsoleti. Le istituzioni sociali e giuridiche entrarono in contraddizione con i nuovi rapporti economici, di cui anche una rivoluzione culturale. Il processo vitale della società, quasi febbrilmente intensificato, infuse nuova linfa in tutti gli ambiti della scienza e in particolare dischiuse l'ampia area delle scienze sociali. Molte cose che in passato erano sembrate ovvie necessitarono a questo punto di essere spiegate. Se in passato si discuteva di concrete questioni giuridiche, ora ci si interrogava circa la natura del diritto. Se in precedenza si erano discusse le misure concrete del potere statuale, ora ci si rivolgeva alla natura dello Stato. Nel mondo sociale tutto sembrava vacillare o svanire. Sul tema del mutamento economico, sociale e culturale prodotto dalla rivoluzione industriale, che tanto rilievo ha in questo saggio su passato e futuro nelle scienze sociali, Schumpeter ha scritto pagine potenti nelle sue opere più mature. La macchina capitalistica, egli ha affermato, è prima di tutto una macchina per la produzione in massa, che significa anche di necessità produzione per le masse. Creazioni tipiche del meccanismo produttivo capitalistico sono i panni a buon mercato, i tessuti a buon prezzo di cotone e di rayon, le scarpe, le automobili e così via. La regina Elisabetta possedeva calze di seta, ma il successo del capitalismo non sta nel fornire un numero maggiore di calze di seta alle regine, bensì nel metterle alla portata di giovani operaie in cambio di uno sforzo di lavoro continuamente decrescente. In altre parole, ha asserito Schumpeter, il processo capitalistico, non per una coincidenza, ma in virtù del suo stesso meccanismo, determina un progressivo aumento del livello di vita delle masse. Lo determina attraverso una serie di vicissitudini, la cui gravità è proporzionale alla velocità del moto ascendente, ma lo determina comunque. Memorabili le pagine in cui Schumpeter ha spiegato la funzione fondamentale dell'imprenditore nel sistema capitalistico. Lo studioso austriaco ha liquidato l'immagine di maniera che Karl Marx e le scuole socialiste avevano dato del capitalista come personaggio essenzialmente parassitario, in quanto mero beneficiario di plus lavoro. Schumpeter non ha parlato di capitalista, bensì appunto di imprenditore, il quale ha la funzione di rivoluzionare il quadro produttivo sfruttando un'invenzione, o più generalmente, una possibilità tecnica finora trascurata di produrre una nuova merce o di produrre in modo nuovo una merce vecchia, aprendo una nuova sorgente di rifornimento di materie prime o un nuovo sbocco ai prodotti, riorganizzando un'industria, eccetera. La costruzione delle ferrovie, la produzione di energia elettrica, le audacie nel campo del vapore, dell'acciaio, dell'automobile, giù fino al successo ottenuto nel lancio di un tipo particolare di salsa o di spazzolino da denti. Tutti questi sono esempi delle attività creatrici degli imprenditori, finanziati dai banchieri, che hanno determinato le prosperità ricorrenti e le ricorrenti recessioni dovute all'azione di squilibrio esercitata dai nuovi prodotti e dai nuovi metodi. Se non che, secondo Schumpeter, questo meccanismo creativo era destinato ad incepparsi. Il processo capitalistico portava infatti alla concentrazione delle imprese, ma le grandi imprese si burocratizzano. Il lavoro di uffici e comitati tende a soppiantare l'azione personale dell'imprenditore e l'innovazione viene trasformata in un'attività di routine. Di qui la decadenza del capitalismo e la sua sostituzione con un socialismo controllato dallo Stato. In realtà, come è stato giustamente detto da Alessandro Roncaglia, Schumpeter aveva gravemente sottovalutato il ruolo svolto dagli inventori individuali e dai ricercatori operanti negli istituti universitari. Il flusso delle loro idee avrebbe avuto un'importanza fondamentale anche per le grandi imprese, così come gli aveva gravemente sottovalutato il ruolo delle piccole imprese nell'avviare importanti innovazioni che in seguito sarebbero state sviluppate dalle grandi imprese. Il fatto è che quando Schumpeter formulava la sua previsione della decadenza e della scomparsa del capitalismo, egli era sotto l'impressione della terribile crisi economica apertasi nel 1929. E, come egli aveva ben mostrato nel suo saggio del 1915, le nostre analisi e le nostre categorie mentali sono sempre immerse nello spirito del tempo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il rivoluzionario più audace è l'imprenditore di Giuseppe Bedeschi dal Corriere della Sera di lunedì 7 marzo.